Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il 20 luglio di 10 anni fa venivano istituiti in Italia i certificati bianchi. Parliamo di un meccanismo di incentivazione per l'efficienza energetica che ha avuto molto successo, tanto che diversi paesi europei ce l'hanno copiato. L'anno scorso poi è stato un anno importante nella storia dei certificati bianchi perché ci sono stati diversi cambiamenti, sia dal punto di vista della loro gestione, che è passata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas alla GSE, sia per l'introduzione di un coefficiente che serve, diciamo così, a valorizzare maggiormente gli interventi di efficientamento di più ampio respiro. Quindi facciamo un po' un bilancio con il direttore di FIRE, che è la Federazione Italiana per gli Usi Efficienti dell'Energia, Dario Di Santo. Buonasera Dario. Buonasera a tutti. Allora, intanto ricordaci rapidamente come funziona questo meccanismo. Questo schema assorbe a due funzioni contemporaneamente. Intanto è un meccanismo d'obbligo, secondo luogo è un meccanismo di incentivazione, perché oltre a partecipare le parti obbligate, che sono i distributori di energia elettrica e gas, possono partecipare anche le ESCO e le società dotate di energy manager, e da questo punto di vista queste società possono ottenere questi certificati bianchi realizzando interventi di efficienza energetica e poi venderli alle parti obbligate. Da questa vendita deriva l'incentivo, che è poi la ragione per cui questo schema riesce anche a promuovere efficacemente l'efficienza energetica negli usi finali. Ecco, si ha diritto a un certificato bianco quando si fa che cosa? Quando si risparmia una tonnellata equivalente di petrolio, che vale circa 5.300 kWh elettrici o 1.200 metri cubi di gas, per dare un valore di riferimento. Quindi in pratica bisogna compilare delle schede oppure delle robe un po' più complicate, si calcola quanto si prevede risparmiare in tonnellate equivalenti di petrolio e si ha diritto ad altrettanti certificati bianchi. Più o meno questo è il meccanismo, giusto? Per 5 anni si ottengono certificati bianchi, sono 8 anni per gli interventi sull'involucro edilizio e sono 10 anni per la cogenerazione ad alto rendimento. Ok, ecco, ed è un meccanismo con un rapporto costi-benefici molto favorevole. È il migliore da questo punto di vista se confrontato con le alternative, che sono poi le detrazioni fiscali e il conto termico. Considerate che ha un costo per lo Stato di 0,4 centesimi di euro per kilowattora, a fronte di un costo al cliente finale domestico che è nell'ordine dei 20 centesimi di euro al kilowattora. Poche settimane fa è stato anche presentato il rapporto relativo ai certificati bianchi del 2013, che è stato anche un anno di passaggio e un rapporto che, insomma, ci fa capire che stanno cambiando diverse cose. Ecco, che cosa è venuto fuori? Gli elementi fondamentali sono A, che c'è una continua crescita del settore industriale all'interno di questo schema. Quindi il settore industriale, che prima era sostanzialmente relegato a un 10-20%, oramai rappresenta la maggior parte degli interventi. Stiamo fra il 70-80% a seconda che si considerino nuovi progetti oppure il globale della situazione. E questo è stato accompagnato anche dal fatto che ora i progetti la fanno da padrone non sono quelli semplici, quelli basati sulle cosiddette schede standard, come erano inizialmente le lampadine fluorescenti regalate nelle piazze o i rompigetti arati per i rubinetti, ma sono progetti complessi, prevalentemente rivolti appunto al settore industriale, che investono un po' tutti i settori industriali, da quelli più energy intensive come le acciaierie, il petrolchimico, la chimica, le cartiere e via discorrendo, fino ad arrivare anche comunque a quelli classici nazionali, quindi il tessile, l'agroalimentare e così via. E dall'altra parte il meccanismo è molto interessante, perché va a fornire a chi realizza un intervento di efficienza energetica, quindi in particolare un'azienda del settore industriale, un 20, 30 ma anche di più in termini percentuali rispetto al costo di investimento. Al costo di investimento. Ed c'è stato proprio un salto qualitativo, è cambiato il tipo di interventi, no, che si fanno. Se inizialmente erano interventi molto facili, possiamo definire quasi orizzontali, no? Nell'industria il motore elettrico efficiente, adesso si va a investire molto sul processo industriale, quindi si fa molto recupero di calore, si migliorano i processi, si sostituiscono combustibili tradizionali con fonti rinnovabili e con scarti di lavorazione industriale, quindi sono tutti interventi che hanno tra l'altro l'effetto, che in alcuni casi, di rivedere il processo industriale, migliorarlo e in questo modo contribuire anche alla competitività delle aziende a livello internazionale oltre che nazionale. Grazie Dario Di Santo. Grazie a voi. Bene, ci fermiamo qui, ci risentiamo lunedì. Vi segnalo anche che la FIRE settimana prossima mette proprio una guida guida sui certificati bianchi sul suo sito fire-italia.org. Buona serata.